Filippo ha fatto più un passaggio, diciamo, specifico. Io cerco invece magari di sintetizzare, cioè di relazionare più relativamente al workshop, quindi crisi economica, welfare e servizi. Vabbè, sicuramente forse prima, nel senso quando abbiamo pensato questo workshop, quello che ci avevamo detti è di stare su un livello molto, diciamo, facilmente accessibile a tutti, e quindi forse sarebbe anche necessario dare una premessa su quello che intendiamo in generale per welfare. Cioè, nel senso, comunque, quando parliamo di welfare solitamente ci riferiamo a tutta quella gamma di servizi di sostegno alle persone e al benessere delle persone, perché proprio welfare vuol dire benessere, che diciamo si sono affermati in un determinato periodo storico, che poi qualcuno può chiamare fordista, qualcuno, insomma, non entriamo in questo tipo di discussione che è abbastanza, cioè, fuori luogo qui. Ma quello che è interessante, secondo me, sottolineare è il fatto che quei diritti e quei servizi che il welfare garantisce all'individuo non sono calati per caso dalla mano dello Stato, come qualcuno vorrebbe pensare, ma sono il frutto di battaglie e di lotte, cioè sono diritti che sono stati conquistati. E quindi penso al diritto alla salute e ai consultori, ad esempio, per le donne, come per le persone trans, l'interruzione di gravidanza, cioè è così una vasta gamma di diritti, così come anche ad esempio una sanità pensata, una prevenzione per l'HIV pensato più specificatamente per le persone omosessuali, no? Quello è il frutto di rivendicazioni specifiche, non è che qualcuno una mattina si è svegliato e ha detto oggi introduciamo il consultorio, oggi introduciamo questo tipo di sanità, c'è stato qualcuno che l'ha chiesto, e quindi è per quello, cioè, secondo me, che noi ci abbiamo ricordare, perché quello che spesso oggi sentiamo dire anche all'interno della scena LGBT italiana è perché i gay dovrebbero interrogarsi sul welfare, sul sistema sociale italiano, sul sistema sociale del paese, alla fine non è quello che ci riguarda, e invece questa è proprio questo che ci riguarda, perché se noi oggi siamo quello che siamo, come dicevamo stamattina, e abbiamo anche dei mezzi a disposizione per essere quello che siamo, è perché ci sono state portate avanti le lotte, e delle lotte che hanno portato a dei risultati concreti, tangibili, in termini appunto di benessere delle persone, in termini anche poi in altri ambiti di redistribuzione poi della ricchezza del paese, da chi più ha a chi più non ha. Stamattina qualcuno giustamente diceva: io ho potuto studiare perché c'è una scuola pubblica. Quello è quello è una base fondamentale di un sistema di welfare che magari 100 anni fa ovviamente non c'era, perché il figlio dell'operaio non poteva, non aveva accesso in alcun modo all'istruzione, insomma. Ecco che riguardo invece alla crisi economica, quello che secondo me è importante sottolineare è il fatto che il rapporto tra crisi e welfare non è un rapporto che nasce nel 2008 con la crisi del 2008, perché ormai dagli anni 80, magari non in Italia, pensiamo agli Stati Uniti, all'Inghilterra, che come dire, si usa lo spauracchio della crisi per distruggere diritti e servizi acquisiti e garantiti. Ecco che quindi diciamo che quello che si fa, l'idea che si fa passare è che il diritto, il welfare, sia soltanto come dire, un costo per la collettività, cioè questo servizio ci costa, quindi in una situazione di crisi dobbiamo tagliare quel costo. E quindi non si va a ragionare, cioè si va a ragionare soltanto in quei termini, e quindi questo mi fa pensare molto a quello che, si diceva stamattina, no? La fine delle ideologie. La fine delle ideologie nel senso di una vittoria di una sola ideologia, cioè una sola ideologia che diventa una ideologia puramente tecnica, amministrativa, gestionale, in cui ci sono soltanto costi netti e benefici, quindi il welfare è un costo, lo abbattiamo in una situazione di crisi, abbiamo di sanare il conto, abbattiamo quel welfare, come se dietro quel costo non ci fosse appunto un diritto, non ci fossero appunto i bisogni delle persone cittadini. E per quanto riguarda e su questo secondo me quindi appunto dobbiamo iniziare a riflettere, perché questo modello che appunto nasce già da 30 anni sta è diventato nostro quasi a tutti gli effetti. Cioè oggi anche la cosiddetta sinistra non ha più il coraggio di porre in discussione realmente questo discorso, e anzi questo discorso è diventato la base, ad esempio, dell'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea considera tutto in un'ottica puramente di costi e benefici, e quindi diciamo che c'è la vittoria unicamente di questa ideologia che non viene criticata e messa in discussione. Per quanto riguarda, diciamo, il rapporto, cioè la relazione specifica tra i soggetti LGBT e la crisi economica e il welfare, beh, innanzitutto, appunto, come diceva Filippo, è necessario fare un attimo, cioè interrogarci su quello che è il sistema di welfare italiano, perché è vero sì che, appunto, grazie a delle lotte abbiamo avuto tante conquiste, però è vero anche che il nostro sistema di welfare resta improntato a un'ottica puramente familistica, e un'ottica familistica che anzi viene sempre più esaltata. Pensiamo soltanto alla legge Tarsia, che proprio è l'esaltazione totale di quel modello familistico in cui ognuno ha il suo ruolo, in cui l'unica norma, regola accettata è la famiglia eterosessuale, in cui la donna ha un ruolo specifico di riproduzione, insomma. Ecco che, appunto, allora in Italia che cosa succede? Noi abbiamo da un lato un welfare familistico che inizia anche ad essere tagliato pesantemente. Contemporaneamente non abbiamo un welfare individuale solido. Se a ciò aggiungiamo che c'è una crisi fortissima in campo dell'occupazione, quindi abbiamo o disoccupazione oppure la maggior parte degli occupati ha un lavoro che è assolutamente non dignitoso, questo si traduce in una difficoltà reale per le persone, in particolare per le persone LGBT, o di uscire di casa se ci sono ancora in casa, se sono giovani ad esempio, no? Quindi quando ci dicono che stiamo ancora a casa, bamboccioni, però nel senso c'è questo problema, oppure dall'altro magari tu eri riuscito 10 anni fa a uscire di casa, però improvvisamente ti trovi costretto in qualche modo a rientrare in quella famiglia perché appunto non hai lo Stato, non ti mette nelle condizioni di poter provvedere, cioè di poter provvedere tu autonomamente al tuo sostentamento, insomma alla tua cura, insomma. E quindi quello che succede cos'è? È il ritorno proprio in questa famiglia che però abbiamo catteggiato oggi, è la famiglia eterosessista, veteropatriarcale, è la famiglia in cui difficilmente si ha la possibilità di esprimersi, una famiglia in cui si è posto continuamente sotto controllo. E quella famiglia proprio da cui oggi si diceva parte proprio tutto, cioè è la fonte primaria della nostra oppressione. E quindi è per questo, cioè nel senso che è fondamentale ragionare sul rapporto diretto che c'è tra i bisogni delle persone, in particolare per quanto ci riguarda le persone LGBT, e la necessità di promuovere nuove tipologie di welfare, cioè un welfare che pensi più ai bisogni individuali. Poi possiamo stare qui a discutere su quale sarà la forma da individuare, se è il reddito o non il reddito, quali tipi di trasferimenti, su questo sicuramente si può discutere, però io penso che sia assolutamente necessario ripensare una nuova forma di welfare che ponga al centro la persona in quanto tale, perché quando ci dicono che vanno tutelati sia i singoli ma anche le famiglie, quindi riponendo in primo piano comunque l'idea stessa di famiglia anche da parte dei soggetti LGBT, io mi chiedo, ma se io tutelo il singolo, automaticamente poi vado a tutelare quel singolo che decide di accoppiarsi, di riprodursi, di fare una famiglia, chiamiamola come vogliamo, una coppia, una poligamia, cioè nel senso qualunque tipo di forma scelga. Però se il singolo ha dei diritti, perché altrimenti se noi partiamo dai diritti della coppia, cioè come dicevamo stamattina, ci fossilizziamo sui Pax, sui Dico, su quello che sono, cioè noi andiamo a tutelare e a riconoscere soltanto i diritti di chi fa una determinata scelta, se poi vogliamo definire omologata o omologante, vediamo, discutiamone, però comunque di chi fa quel tipo di scelta, cioè non ci interessiamo, cioè non mettiamo al centro invece i bisogni di tutti, che secondo me dovrebbero essere il centro della questione. Grande, sei stato proprio nel 10 minuti, c'è il mio mito.